Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. In seguito, Josef Knecht affermò che i mesi vissuti nel boschetto di bambù erano stati non solo un periodo particolarmente felice, ma anche l'inizio del suo risveglio. Uno dei risultati positivi del tempo trascorso col fratello maggiore consiste nel fatto che, da allora in poi, Knecht vinse la ripugnanza di tornare a Waldzell, tanto che ogni anno vi frequentava qualche corso superiore e, senza saper come, era diventato una personalità stimata nel Vicus Lusorum. Ora apparteneva all'organo intimo e più sensibile di tutto il gioco, a quel gruppo anonimo di giocatori provati, nelle cui mani sta di volta in volta il destino, o almeno l'indirizzo e la moda, del gioco stesso. Per lui contavano soltanto gli studi, che ormai erano tutti compresi nella sfera del gioco. Oltre a ciò contava, forse, unicamente il quesito se questo fosse realmente la vetta più alta della Castalia e mettesse conto di impegnarvi la vita. Infatti, quel suo progredire nei misteri sempre più reconditi delle norme e delle possibilità del gioco, quel suo acclimarsi nei diversi labirinti dell'archivio e nel complesso mondo interiore dei simboli del gioco, non avevano affatto posto a tacere i suoi dubbi. Aveva già sperimentato che la fede e il dubbio vanno appagliati, che si postulano a vicenda come l'inspirazione e l'espirazione, e insieme coi progressi in tutti i campi del microcosmo del gioco, s'erano naturalmente ampliate anche la sua visione e la sensibilità ai lati problematici di esso. Proprio in un momento in cui questi problemi urgevano in modo particolare e nei suoi sogni si svolgevano frequenti discussioni con dei signori, Knecht, mentre attraversava uno degli spaziosi cortili del rione di Waldzell, dove abitavano i giocatori, si sentì chiamare per nome da una voce che lì per lì non riconobbe, eppure gli pareva ben nota. Quando si volse, vide un giovane di alta statura, col viso incorniciato da una barbetta, che si avvicinava di corsa. Era Plinio. In un impeto di memoria e di tenerezza, lo salutò cordialmente. Poi s'accordò con lui per incontrarsi quella sera. Plinio, che da un pezzo aveva terminato il periodo di studi nelle università laiche e assunto un impiego, era venuto per un breve periodo di vacanze a frequentare da esterno un corso di gioco delle perle, come aveva già fatto qualche anno prima. Ma l'incontro quella sera mise presto i due amici in grande imbarazzo. Plinio era un ospite, un tollerato. Seguiva il corso con molto zelo, ma era un corso per dilettanti, per gente di fuori. La distanza era troppo grande. Egli si trovava di fronte a uno specialista e iniziato che, pur col fare riguardoso e col modo compito di assecondare l'interessamento dell'amico al gioco delle perle, non poteva evitare di fargli capire che non era un collega, ma un bambino, e che trovava il suo divertimento alla periferia di una scienza che a lui era intimamente familiare. Knecht cercò di sviare il discorso dal gioco e pregò Plinio di parlargli delle sue funzioni, del lavoro, della vita di fuori. Ed ecco che, a questo proposito, l'arretrato era Knecht. Era lui il bambino che faceva domande ingenue e riceveva dall'altro risposte riguardose. Si sforzavano però di intendersi e dei signori raccontava un mucchio di cose dei suoi studi ed esami, di viaggi in Inghilterra e nel Mezzogiorno, di assemblee politiche, del Parlamento. A un certo punto disse anche una cosa che suonava come monito o minaccia. «Vedrai, presto verranno tempi irrequieti, forse anche guerre, e non è affatto impossibile che tutta la vostra esistenza a Castalia ridiventi un giorno molto problematica». Josef non la prese troppo sul serio e domandò: «E tu, Plinio, sarai pro o contro la Castalia?» «Oh, a me probabilmente non si chiederà come la penso. D'altro canto sono per l'indisturbata continuazione di quest'opera, altrimenti non sarei qui. Certo, per quanto le vostre pretese materiali siano modeste, la Castalia costa al paese una bella sommetta all'anno». «Già», rise Josef. «La somma consiste circa in un decimo di ciò che il nostro paese, durante il secolo bellico, spendeva annualmente per armi e munizioni». Si incontrarono ancora alcune volte e più si avvicinava la fine del corso frequentato da Plinio, più si usavano reciproche cortesie. Ma quando, passate le 2 o 3 settimane, Plinio partì, entrambi si sentirono sollevati. Era allora maestro del gioco delle perle Thomas von der Trave, un uomo famoso che aveva fatto lunghi viaggi e conosceva il mondo. Un giorno fece chiamare Josef Knecht, lo ricevette in abito da casa nel proprio appartamento e gli domandò se gli fosse possibile e gradito venire da lui per mezz'oretta nei prossimi giorni, sempre a quell'ora. Knecht, che non si era mai intrattenuto con lui a quattro occhi, accolse l'ordine con una certa meraviglia. Per il momento il maestro gli presentò uno scritto voluminoso, una proposta fattagli da un organista, una di quelle innumerevoli proposte il cui esame fa parte dei lavori della suprema autorità del gioco. Knecht incominciò ad aiutare il maestro nell'analisi della proposta ricevuta. La mezz'ora passò veloce. Il giorno successivo egli ritornò puntualmente e così fece per 2 settimane, lavorando sempre mezz'ora, solo, con Ludi Magister. Fin dai primi giorni osservò che questi gli affidava anche proposte di poco valore, la cui inutilità era manifesta alla prima occhiata, affinché le elaborasse criticamente fino in fondo. Dopo l'ultima delle loro sedute, il maestro del gioco delle perle gli parlò con quella sua voce piuttosto alta e cortese, in un linguaggio dagli accenti precisi, senza alcuna solennità. «Sta bene, non occorre che tu venga domani. Per il momento il nostro compito è terminato. Presto dovrò incomodarti un'altra volta. Ti ringrazio molto della collaborazione che mi è stata preziosa. Sono del parere che ormai dovresti fare la domanda di essere accolto nell'ordine». Non incontrerai ostacoli perché ho già avvertito le autorità. Spero che sarai d'accordo, vero? Josef rimase sorpreso. Un baleno gli attraversò la mente. Quelle parole significavano la fine della sua libertà, la conclusione del periodo di studi, l'ingresso nell'ordine e il suo prossimo inserimento nella gerarchia. Chiese pertanto che la cerimonia fosse compiuta dal maestro di musica. Ricevette una dichiarazione scritta e una breve licenza e partì il giorno dopo per Monteport dal suo protettore e amico. Trovò il vegliardo un po' sofferente, ma ne ebbe il più gioioso benvenuto. «Arrivi di buon punto», disse il maestro. «Tra poco non avrai più il diritto di accoglierti nell'ordine come giovane fratello. Sono in procinto di deporre la carica». Le mie dimissioni sono già state accettate. La cerimonia era semplice. Il maestro invitò il candidato a festeggiare il momento, suonando un preludio di Bach. Dopodiché uno dei testimoni lesse la regola dell'ordine nella stesura abbreviata e il maestro, formulate le domande rituali, accolse il voto del giovane amico. Knecht ritornò subito a Waldzell, poiché aveva ottenuto soltanto 3 giorni di permesso. Appena arrivato fu chiamato dall'Udi Magister, che lo accolse con serenità collegiale, felicitandosi per l'entrata nell'ordine. «Per farci pienamente colleghi e compagni di lavoro, manca soltanto che ti sia assegnato un posto preciso nel nostro edificio». Josef rimase un po' perplesso, poiché ora si trattava di perdere la libertà. «Oh, spero che mi sia assegnato qualche incarico modesto». Il magister lo guardò negli occhi con quel suo sorriso intelligente e un po' ironico e disse: «Intanto ho una proposta. Ci occorre un uomo responsabile che non sia conosciuto fuori della nostra cerchia, per una missione particolare». Si trattava dell'incarico seguente. Una delle più antiche sedi culturali del paese, Maria Fels, il convento benedettino che era in rapporti amichevoli con la Castalia e da decenni si dedicava al gioco delle perle, aveva pregato che per qualche tempo gli fosse assegnato un giovane insegnante capace di avviare al gioco i principianti e di stimolare alcuni giocatori già progrediti. La scelta del magister era caduta su Josef Knecht, perciò lo aveva sottoposto a cauto scrutinio, perciò aveva accelerato il suo ingresso nell'ordine. Josef non avrebbe mai pensato che l'invito a Maria Fels fosse una distinzione speciale e un bel passo avanti sulla scala della gerarchia. Poteva però dedurlo chiaramente, con occhio più vigile di allora, dal contegno dei compagni. Se da qualche tempo entro l'elite dei giocatori di perle apparteneva al nucleo centrale, ora lo straordinario incarico lo indicava davanti a tutti come colui che i superiori tengono d'occhio e del quale intendono servirsi. I compagni di ieri non si tirarono indietro, né divennero scortesi, poiché in quella cerchia, altamente aristocratica, si teneva fin troppo alle buone maniere, ma una distanza venne a crearsi. Il compagno del giorno prima poteva essere il superiore di posdomani, E quella cerchia registrava e manifestava siffatti mutamenti nei rapporti reciproci con le sfumature più sottili. Faceva eccezione Fritz Tegularius, che dopo Ferromonte poteva ben dirsi l'amico più fedele nella vita di Joseph Knecht. Quell'uomo, le cui doti destinavano ai gradi supremi, ma la mancanza di salute, di equilibrio e di fiducia in sé ostacolavano gravemente, aveva la stessa età di Knecht, dunque circa 34 anni, all'epoca in cui quest'ultimo veniva accolto nell'ordine e per la prima volta lo aveva incontrato circa 10 anni prima a un corso di gioco delle perle. E già allora Knecht aveva intuito quanto il giovane, taciturno e un po' malinconico, si sentisse attratto verso di lui. Con l'andar degli anni, quest'uomo straordinario era diventato realmente amico di Knecht, ammirando in quest'ultimo, oltre allo spirito, anche un certo carattere dominatore. Gli portava una devozione commovente e a lui dobbiamo molta parte di quanto si sa sul conto di Knecht. Nella cerchia più ristretta dei giovani giocatori di perle, era forse l'unico che non invidiasse l'amico per l'incarico affidatogli, l'unico il quale sentisse la sua partenza, per tempo indeterminato, come una perdita quasi insopportabile e ne avesse profondo dolore. Una volta superato quel certo spavento per la perdita improvvisa dell'amata libertà, Joseph si compiacque della nuova situazione ed ebbe voglia di compiere quel viaggio, di conoscere il mondo nuovo nel quale lo mandavano e di esercitarvi la sua attività. D'altro canto, il giovane fratello non fu mandato a Mariafels così su due piedi, ma prima di tutto venne ficcato per 3 settimane nella polizia, così gli studenti chiamavano quella piccola sezione nell'organismo dell'autorità pedagogica che potrebbe definirsi all'incirca il suo dipartimento politico o anche ministero degli esteri, se questi non fossero nomi troppo solenni per una cosa di poco conto. La Knecht dovette apprendere i modi di comportarsi durante la permanenza fuori di Castalia e quasi ogni giorno il signor Dubois, capo di quella sezione, gli dedicava 1 ora personalmente. Infatti, quest'uomo coscienzioso giudicava arrischiato mandare all'estero uno non ancora pratico, anzi ignaro del mondo. Joseph Knecht si cattivò la benevolenza dell'insegnante, il quale alla fine poté licenziarlo con animo tranquillo e con piena fiducia nella sua missione. Tentò persino, più per benevolenza che per politica, di affidargli, anche per parte sua, una specie di incarico. Al termine del loro ultimo incontro, Dubois gli disse: «Penso che ora posso lasciarti andare. Ti atterrai rigorosamente all'incarico a te affidato dall'onorevole Ludi Magister, nonché alle nostre istruzioni. Sono molto lieto di averti potuto aiutare. Vedrai che le 3 settimane durante le quali ti abbiamo trattenuto qui non sono state tempo perso. E se un giorno dovessi avere il desiderio di dimostrarmi la tua soddisfazione per le informazioni che ti ho date e per avermi conosciuto, te ne voglio indicare il modo. Tu entrerai in un convento di benedettini. Rimanendovi per qualche tempo, conquisterai la fiducia dei padri. Udrai probabilmente anche discorsi politici nella cerchia di quei reverendi e dei loro ospiti e sentirai i loro umori politici. Ti sarò grato se all'occasione me ne vorrai dare notizia. Intendimi bene, non devi affatto considerarti una sorta di spia né abusare della fiducia in te riposta da quei padri. Non devi farmi alcuna comunicazione che la tua coscienza non ti permetta di fare. Ti garantisco che apprendiamo e usiamo ogni informazione soltanto nell'interesse del nostro ordine e della Castalia. Nel libro delle mutazioni che Knecht consultò prima di mettersi in viaggio, celebrando la cerimonia degli steli di mille foglie, si imbatté nel segno Lu, che significa il viandante, con la sentenza «riuscire mediante il poco». Al viandante è salutare la costanza. Al secondo posto trovò un 6 e cercò nel libro l'interpretazione. Il viandante giunge alla locanda, ha tutto il suo con sé, ottiene la costanza d'un giovane servo. La strada tracciata gli era evidentemente quella di entrare sempre, con inconsapevole naturalezza, nell'élite, di trovare amici compresi di ammirazione e protettori altolocati. La sua strada non lo portava a fermarsi nell'ombra alla base della gerarchia, ma ad avvicinarsi costantemente alla sua vetta e alla luce che la illuminava. Egli non doveva diventare un subalterno e nemmeno un erudito privato, ma un dominatore. Il fatto di essersene accorto più tardi di altri, che erano in simile posizione, gli conferiva quell'indescrivibile aumento di fascino, quel tono di innocenza. Nella sua plurisecolare esistenza, il monastero di Mariafels aveva subito le peripezie e contribuito a determinare la storia dell'Occidente. Aveva visto periodi floridi, decadenze, rinascite e nuove rovine, e in certe epoche, in diversi campi, era stato famoso e illustre. Sede un tempo di erudizione scolastica e dialettica, ancora in possesso di una grandiosa biblioteca di teologia medioevale, era risalito, dopo tempi di abbandono, a nuovo splendore, grazie al culto della musica, del suo vantato coro, delle messe e degli oratori scritti ed eseguiti dai suoi padri. Era poi venuto il periodo politico del monastero, che pure aveva lasciato una certa tradizione ed esperienza. Nei tempi di grave depravazione, seguiti alle guerre, Mariafels era diventata più volte l'isoletta della ragione e del ravvedimento, dove le migliori menti dei partiti ostili si cercavano a vicenda, con cautela, tastando il terreno per intendersi, e una volta, questo fu l'ultimo punto culminante della sua storia, il monastero aveva ospitato le delegazioni che avevano stipulato la pace, appagando per qualche tempo il desiderio dei popoli stremati. Iniziata poi un'era nuova e fondata la Castalia, il convento era stato a guardare, piuttosto ostile, forse non senza aver attinto istruzioni a Roma. Solo dal tempo dell'abate Pius, che in età avanzata incominciò a interessarsi al gioco delle perle, si stabilirono rapporti amichevoli, anche se non proprio animati. Si scambiavano libri, si accordava reciproca ospitalità. Anche il maestro di musica, il protettore di Knecht, aveva passato da giovane alcune settimane a Mariafels, copiando manoscritti musicali e suonando il famoso organo. Knecht lo sapeva ed era contento di recarsi in un luogo del quale quell'uomo venerato gli aveva parlato con gioia. Fu accolto con distinzione e cortesia che superarono la sua attesa e quasi lo imbarazzarono. Del resto, era la prima volta che la Castalia metteva a disposizione del monastero, per tempo indeterminato, un insegnante del gioco delle perle, appartenente all'élite. Dal dirigente Dubois, Knecht aveva imparato a non considerarsi, specie nei primi tempi, se non il rappresentante della Castalia, e ad accettare e contraccambiare come tale sia gli atti di cortesia, sia le eventuali scortesie. Ciò lo aiutò a superare l'iniziale timidezza. Riuscì anche a dominare quel senso di estraneità e di lieve inquietudine che nelle prime notti gli impediva di dormire. E siccome l'abate Gervasius gli dimostrava una gaia e cordiale benevolenza, finì presto col trovarsi a suo agio nel nuovo ambiente.